Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Sì, un cordiale ben ritrovati a tutti, una buona giornata, anche se il tempo è un po' plumbeo, piove, fa abbastanza freddo, al nord addirittura nevicate anche a bassissima quota e il meteo non preannuncia nulla di buono, anche per quanto attiene il nostro sud e le isole. E oggi, visto che è una giornata plumbea, parleremo di argomenti molto delicati, parleremo di un dissesto di un comune a noi molto caro, di Cefalù. Stiamo parlando, si parla di 13 miliardi del vecchio conio, anzi 26 miliardi del vecchio conio di lire. Parleremo, avremo in diretta il sindaco di Cefalù, la Punzina, il quale insomma ha dovuto fare i salti mortali e sei ancora in attesa. Poi vi racconteremo tutto l'iter di quello che il sindaco ha dovuto fare, le risposte che ha ricevuto, e quindi poi cercheremo di capire verso dove andrà il comune di Cefalù, che è in dissesto per quasi 13 milioni di euro. In seconda battuta parleremo di un bel libro che è uscito in questi giorni, edito da Edizioni Arianna, che è una casa editrice di Geraci Sidro, che sta avendo molti successi, sta riscuotendo successi anche nel Nord Italia, ed ha pubblicato un bel libro di Pietro Ferro. Pietro Ferro è un produttore musicale e il manager addirittura del figlio di Claudio Baglioni, Giovanni Baglioni, e produce anche artisti di un certo livello. Ha scritto un bel libro sui padri separati, e questo ne parleremo poi in seconda battuta. Vi leggerò qualche brano, perché sono brani veramente toccanti. È un libro piccolo, non ha migliaia di pagine, però in questo assunto c'è tutto il concentrato di quello che può essere l'amore filiale di un padre verso un figlio, di un figlio che non vede spesso il padre. Insomma, sono dei contrasti abbastanza forti, a tinte fosche a volte, quando ci si mette di mezzo anche l'incongruenza tra i due genitori. Di mezzo, ahimè, ci vanno sempre i figli. Bisognerebbe avere molto più buon senso da parte di entrambi, sia da parte del padre che della madre. Quindi toccheremo un altro argomento scottante: i padri separati, che non vedono tutti i giorni i propri figli, quindi non conoscono bene poi quello che succede ai medesimi, cioè non vedendosi ricrescere durante l'arco delle 24 ore, non, si perdono parti importanti della crescita dei propri figli, e poi si rischia di non conoscersi quando ci si incontra, magari a distanza di anni. E questo è un secondo argomento. Il terzo argomento che tratteremo, non meno importante degli altri due, è il problema degli esodati del CEFOP. Sono 950 in tutta la Sicilia i dipendenti di questo ente di formazione, uno dei più grandi della Sicilia, che ha subito un dissesto economico non indifferente, fino ad arrivare al punto di essere commissariato da tre commissari che hanno fatto una scrematura, dovevano rimettere a posto un po' i conti, e quindi hanno esodato, hanno messo fuori, quindi licenziato in tronco, questo è il termine tecnico, licenziati dal CEFOP ben 350 dipendenti. Di questi circa una ventina sono di un comune vicino a noi, Castelbuono, e quindi poi sentiremo il sindaco, perché si era fatta una proposta in consiglio comunale dello stesso sindaco e della maggioranza di governo, ma per un cavillo, visto che non era sull'ordine del giorno, non se ne è discusso. Era una nota di protesta e di raccomandazione che il comune, con a capo il sindaco, il presidente del consiglio e tutta la giunta, volevano sottoporre l'attenzione del presidente della Regione Crocetta, per fare, insomma, sensibilizzare lui stesso su queste problematiche non indifferenti. C'è gente che veramente rischia grosso, senza stipendio, con mutui bloccati, insomma, e quant'altro. Di tutto questo ne parleremo poi col sindaco di Castelbuono, Antonio Tumminello. Lo avremo al telefono tra circa tre quarti d'ora, in attesa che si ripristino i collegamenti. Dovremmo avere invece in collegamento, non ancora, lo procrastiniamo più tardi, quindi parliamo adesso degli sponsor. Intanto volevo ringraziare la parafarmacia dottoressa Guardì. Lo trovate in via D'Alighieri 116 a Castelbuono, prodotti straordinari, prodotti per il corpo, della pelle sensibili, come per esempio l'aveno, gli integratori con vitamina Mix, Junior e Pappa Reale, l'esclusivista Roche, cosmesi, viso, corpo, antirughe, antietà, viso di donna, che sono particolarmente belle, ma anche agli uomini cominciano finalmente a fare del visage, prodotti per l'infanzia, e poi i presidi sanitari. Cosa sono? Sono anche a noleggio, e sono le sedie a rotelle, le stampelle, i girelli, insomma tutto quello che necessita post infortunio. Vi ricordo quindi la farmacia dottoressa Guardì, via Dante Alighieri 116, telefono per informazioni qualora ve ne servisse qualcuno, 0921 67 22 54. Dicevo l'altra volta, l'inverno sta entrando a pieno regime, insomma il freddo si fa sentire, spesso dai nostri infissi entrano degli spifferi. Allora, cosa bisogna fare per evitare tutto ciò? Cambiare gli infissi. Bisogna andare da Italfinestre SRL in via Roma per lo showroom. Lo trovate in contrada Baita Cerda. invece per l'esposizione via Roma 2H, sempre a Cerda. Produzione di porte ed interni anche su richieste e su misura, pensate, le finestre persiane in PVC in alluminio che sono eterne, una volta che rimontate non li smonterete più e da lì gli spifferi di sicuro non entreranno, e poi per l'estate, in vista dell'estate, le zanzariere. Telefono 329 45 15 69, anche per le maniglie, insomma, c'è una bellissima produzione, quindi un'ampia gamma di scelta. Chiamate questi numeri per fissarvi un appuntamento senza impegno per andare a trovare Italfinestre a Cerda. Dunque, io direi a questo punto di dire alla regia di lanciare, se vuole, i consigli per gli acquisti da parte della radio, e poi un brevissimo stacco musicale, giusto per cominciare a parlare di cose un po' serie, ma questo il programma vuole, ma di cose anche interessanti. Linea alla regia. E non ci fanno dormire. Well, I find some peace today. What can I tell the sir? Pensieri che nascono liberi come rondini in aprile. Well, the clouds are far away. When can I see the land? Ci sono occhi che tagliano il silenzio e mi piace. Mi piace davanti a un bicchiere di rosso, col sorriso più bello che c'è, non ti preoccupare. You have nothing more to lose. E che va tutto bene, anche se a volte sono fuori di me, dimenticando i giorni che stiamo soli, ma non si torna indietro. When driven through the rain, da qui si sente l'Africa, mentre il mare abbraccia la città. And the people that we meet by chance while waiting for the train. Ah, questo mare naviga la speranza al mondo che verrà. Ma non si torna indietro. Ma non si torna. Mai. Ci sono cose che ci lasciano un segno evidente. And the winds of time today, when freed from broken glass. Persone che incontri per caso e poi restano per sempre. And all the words of hate decay to let the past be past. Ci sono occhi che tagliano il silenzio. E mi piace parlarti di me, davanti a un bicchiere di rosso, col sorriso più bello che c'è, non ti preoccupare. You have nothing more to lose. Perché va tutto bene, anche se a volte sono fuori di me, dimenticando i giorni che soli, ma non si torna indietro. Non si torna indietro, ma non si torna indietro. Yeah. E allora rieccoci in diretta dopo questo bellissimo brano di Pino Daniele, se non erro, sì, era lui, alla regia. Ho dimenticato di salutare sempre alla console, la parte tecnica, il nostro fonico El Shaarawy, ormai definito così, anche se si tinge i capelli di biondo, ma è sempre El Shaarawy. Dunque, come vi facevo cenno all'inizio di trasmissione, abbiamo un personaggio, uno scrittore, penso sia la sua opera prima, ma è un'opera straordinaria. Io ho avuto modo di dare una lettura e ho messo dei puntini che poi vi leggerò alcuni passi perché io ritengo che siano fondamentali. Vi parlavo delle separazioni legali, vi parlavo di questi figli che i padri spesso e volentieri non vedono o vedono abbastanza poco, da non rendersi conto poi che il figlio sia cresciuto e si conoscono poco tra padre e figlio, ed è un argomento scontatissimo. Spesso i tribunali, ma a torto o a ragione non lo so, adesso lo chiederemo anche all'autore del libro, danno sempre i figli in la madre potestà alla mamma, come giusto che per certi aspetti sia, ma non è sempre giusto. Allora io intanto ringrazio, saluto e do il benvenuto alla mia trasmissione a Pietro Ferro. Buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben ritrovato in Sicilia, insomma, anche se per via etere. Sì, grazie, è un piacere incontrarvi. Allora Pietro, poi diciamo in effetti di cosa tu ti occupi nella vita. Questa è la tua opera prima, sì? Sì, mio primo libro, io lo definisco un piccolo libro. No, è un piccolo cadeau, lasciamelo dire, perché io ho dato una lettura di massima, perché sai, i tempi sono sempre quelli, si legge più la sera quando si rientra a casa, anziché certo. Guardare un pessimo programma televisivo, amo leggere un buon libro, e quindi ho dato lettura, e poi sai, tra l'altro sono anch'io un padre separato, quindi chi meglio di me potrebbe capire quello che tu hai cercato in tutti i modi, e l'hai fatto in maniera egregia, secondo il mio modesto punto di vista, di spiegare a chi non è in queste nostre condizioni l'amore che si ha verso questo figlio e che spesso non si riesce a vedere tutti i giorni per diversi motivi, vuoi per lavoro, vuoi perché la madre è un po' ostica e quindi contrasta tra mamme, tra padre, tra i genitori, purtroppo di mezzo ci vanno i figli. Tu hai scritto questo libro e l'hai intitolato Leonardo Ferro da Vinci. Perché Leonardo è tuo figlio, quindi è normale che tu l'abbia dedicato a tuo figlio. Ferro da Vinci, perché? Cosa vuoi dire? Sì, beh, allora, diciamo che il titolo del libro è legato ad un aneddoto di quando mio figlio era piccolo. Il titolo del libro di per sé non viene riportato in maniera esplicita all'interno nello scritto del libro. Sì, sì, sì. Però visto che anche i disegni che ci sono all'interno nel libro, perché oltre diciamo alla parte della scrittura ci sono anche dei piccoli così disegni che fece mio figlio quando era piccolo, tant'è che la copertina del veliero, che tra l'altro si lega in maniera indissolubile anche alla prima parte, ad un capitolo intitolato Il Capitano, è stata disegnata quando mio figlio era piccolo, aveva 3 anni, insomma era bravissimo a disegnare, e me l'ha fatta lui quella cosa lì. E Leonardo Ferro da Vinci è legato appunto a questo aneddoto dove lui quando era piccolo iniziava a dire le prime parole, siccome per me ancora prima di diventare padre, con la mia insomma con la mamma di Leonardo, la mia ex compagna, dicevamo se un giorno avremo un figlio lo chiameremo Leonardo in onore proprio del genio. e lui, quando tu gli chiedevi come ti chiami, lui ti rispondeva mangiando un po' soprattutto le R, Leonardo Ferro da Vinci, ti rispondeva. Quindi quando è nato questo libro e ho avuto la voglia di riportare le mie emozioni, le mie sensazioni, l'amore, perché poi questo è un libro, è un inno all'amore, ho detto non può chiamarsi che così, insomma. Ti fermo un attimo perché mi piacerebbe, se tu me lo concedi, di leggere un brano che io ho scelto tra i tanti che sono, il libro è straordinario, devo dirti, almeno ti ripeto, letto da chi già fa parte di questo contesto, cioè un genitore separato, quindi la similitudine con te mi perdonerai, ma sicuramente le tue emozioni sono anche le mie e quelle di chissà quanti altri padri sparsi per tutto il mondo che non riescono a vedere nel quotidiano i propri figli, quindi... Diciamo che io quello che ho fatto è stato quello di trasferire totalmente in maniera univoca l'amore verso mio figlio, perché di questo parla il libro e devo dire che l'aspetto, cioè non ho voluto non ho voluto entrare negli aspetti, per così dire, burocratici, burocratici, perché tanto ci sono, o legali, o legali, esatto, c'è già chi ne parla, e anche, e secondo me anche troppo spesso, insomma, e non è facile, non è mai facile, perché ogni storia è una storia a sé, quindi, bravo. Sai, non, il mio libro non è una guida, non è una, no, è un estrinsecare i desideri umani, voglio dire, un estrinsecare l'amore per i propri figli, e lei, guarda, è un suggerimento. Bravo. Un suggerimento, nel senso che, come dico nell'introduzione, che una piccola introduzione che io ho messo, e che poi tra l'altro è stata riportata in parte anche nella prefazione dal dottor Iannuzzo, sì, che l'ha scritta, dico, oltre l'invalicabile difficoltà di capirsi, c'è un progetto che è stato comune, è successo, che converge gli sguardi di chi un tempo si è amato e ora richiede l'attenzione esclusiva. Quindi, allora... No, prego, se hai finito il concetto, se no non ci sono problemi. No, hai terminato il concetto, sì? Sì. Ah, perfetto. Allora, io te lo leggo con parole mie, quello che tu hai scritto, e sono delle parole molto belle. Sentite cosa dice lui a proposito del figlio. L'inesprimibile, questo sei tu. Tu, il mio bambino, entità indelebile, che non voglio cancellare perché così deve essere, o perché così vanno le cose. Oggi hai 2 anni. Il 22 di gennaio è compiuto 2 anni e io c'ero. Almeno questo posso dirlo. Io c'ero, ma non ti potrò avere per sempre, perché la mamma e io non stiamo più insieme. Ma non ti preoccupare, ci rifaremo un giorno, senza nostalgia. Tu sei bellissimo. Come faccio a spiegare l'inesprimibile? È come chiedere a un poeta cosa lo porta a esprimere il contenuto delle sue poesie. Non si può dire in un'altra maniera. Così sei tu. Così è la tua nascita. E io c'ero. Beh, sono delle parole che io ritengo molto belle. Complimenti intanto, Pietro, a te, perché li scrivi col cuore, insomma, si vede che è normale che un padre che non riesce a vivere il quotidiano col proprio figlio ha questa anche paura di non essere presente in alcuni momenti importanti della vita del proprio figliuolo, no? Certo. Sì, è sempre molto difficile, poi anche con... anche rispetto alla vita che viviamo in maniera frenetica, riuscire a vivere ogni momento accanto al proprio figlio, soprattutto poi per un padre separato che ha veramente un po' per la vita che si vive, il lavoro, ma anche per chi più chi meno per aspetti, per così dire, legali, di vivere in maniera autentica e soprattutto con quella qualità che secondo me si deve riuscire a tutti i modi di trovare nei confronti verso il proprio figlio. Poi sai, il libro, diciamo che dentro il libro, oltre a questo inno all'amore verso un figlio, io faccio delle raccomandazioni che potrebbe fare qualsiasi padre, o quantomeno spero, mi auguro, cioè cerco di dare questo, anche per così dire, un piccolo monito, no? Di vivere la vita con un certo grado di purezza intellettuale. Lo so, non è facile, perché sto parlando forse di un'utopia. No, credo che ci si possa riuscire, non per forza bisogna essere utopici nella vita o le cose vanno... Io credo che invece quello che tu stai dicendo è una cosa sacrosanta, bisogna avere l'umiltà però di essere, come di lottare con qualsiasi mezzo, con qualsiasi modo, purché si riesca a dare ai propri figli, io credo, l'indispensabile, che è l'affetto, la cosa più importante, l'amore. Poi sai, certo, i beni materiali, certo, sono cose che vengono, ci possono essere o non possono esserci, ma l'amore per un figlio, se viene a mancare, sono guai. Assolutamente, sono... Pietro, cos'altro possiamo dire sul tuo libro, in maniera, perché i tempi sono purtroppo radiofonici, tu lo sai, i televisivi sono, certo, quelli che sono, ma volevo avere uno spaccato proprio a 360 gradi di quello che tu hai voluto dirci, soprattutto a chi ha queste problematiche, cioè di vivere una vita separato dai propri figli, e che altro vuoi aggiungere come auspicio magari per gli anni a venire di questi genitori che, ahimè, vivono in una specie di disperazione, se così possiamo dire. Ma guarda, diciamo che la cosa che mi sento di dire, la cosa più bella è di mandare non so come dire, un saluto mi sembra un po' riduttivo, però di abbracciarli comunque, tutti. No, ecco, guarda, la cosa secondo me più importante è di non mollare mai. Lo so che così sembra semplice, sì. Anche una frase un po' fatta, però davvero c'è qualcosa, se veramente sentiamo e abbiamo la necessità dell'amore, di quell'amore verso il nostro figlio, questa cosa è la molla che ci fa scattare per non mollare mai, anche quando ci sono momenti di abbattimento, perché insomma si legge tutti i giorni di papà separati che poi hanno seri problemi, hanno seri problemi. Si va a toccare con mano aspetti della vita, cioè ci sono persone che vivono in macchina, voglio dire, per una serie di problematiche economiche però ecco, non voglio affrontare questo aspetto. No, lasciamolo fuori. Dunque, in buona sostanza, il tuo libro cosa fa? Cioè, cosa trasmette a chi lo legge? Trasmette tutto l'amore di un padre separato. L'amore di un padre, ma poi ecco, alle persone che ci stanno ascoltando, sì. Questo libro cerca di tracciare una traiettoria che attraverso il racconto di quei valori che nella vita sono fondamentali e infatti nel libro vado a parlare non solamente di amore ma della cultura, della libertà, dell'importanza della libertà, appunto, come ho detto, libertà di pensiero. Poi ecco, il libro è strutturato anche attraverso dei racconti, ci sono molte immagini, secondo me sono delle riflessioni, sono diversi quadri riflessivi, sì, hai ragione. Allora, ascolta un attimo, Pietro, prima di salutarci, sì. Due domande molto stringate, mi raccomando, le risposte ai tempi tecnici devi averli tu. La prima domanda che ti faccio è questa: tu sei anche nel mondo artistico, sei un produttore discografico, sei un produttore di artisti, ne segui uno in particolare, ho avuto modo di incontrarti quest'estate a Castelbuono e segui un personaggio che, scevro dal discorso del padre, cioè distaccandosi un po' dal genitore che è mastodontico, stiamo parlando di Claudio Baglioni, ma tu gestisci curi insieme a lui l'immagine di Giovanni Baglioni, che è un chitarrista di un certo livello. Come concili l'aspetto artistico, l'essere sempre fuori in giro, perché questa è la nostra attività tutto sommato, con la vicinanza a tuo figlio? Ma sai, bella domanda, attraverso una oculata e attenta gestione del proprio tempo e rispetto al calendario. Non so che ti dato una risposta banale. Guarda, tu la risposta ce l'avevo già, perché però, anch'io, ecco, faccio lo stesso, guarda, tipo di vita. Per cui, guarda, sai, questo aspetto credo sia molto è importante che sia da parte mia che dalla parte, diciamo, della mamma, ci deve essere quel livello di intelligenza, ed è una cosa che poi vado a lanciare anche nel libro. Bravo. Che ti permette proprio per il bene di tuo figlio, rispetto agli impegni di vita legati al lavoro, al tempo, insomma, che abbiamo, di potergli gestire e con serenità, perché poi alla fine, vedi, ostruire, creare attriti, se ci pensi poi alla fine non serve portano? A niente, alla distruzione. Cosa ti danno? Alla distruzione. Cosa ti danno, oltre al fatto di averti fatto un fegato amaro te e un fegato amaro lei? tuo figlio non lo vedi, crei comunque un attrito che poi va a sfociare in situazioni angosciose, insomma. Sì, alla fine chi ci rimette è tuo figlio, punto. Bravo. Non ci sono altri discorsi. Fermati qui, che abbiamo veramente pochissimi minuti. Sì. L'altra domanda che ti faccio è: cos'è che ti manca di più di tuo figlio, a parte, voglio dire, il corpo, cioè il vedertelo davanti? Cos'è che ti piacerebbe, guarda, fare con lui nel quotidiano, e cosa ti manca di lui? Sì, guarda, io ti rispondo rimandando ad un capitolo che io che a me piace particolarmente, magari non lo so, agli altri magari meno, non lo so. Io comunque c'è un capitolo che si intitola La macchina del tempo. Ah, ecco, tanto per cambiare. E la cosa che mi manca è proprio in ogni momento io ho il pensiero c'è scritta nel libro, questa macchina del tempo, cioè non avere la possibilità di accorgerti di tutte le sfumature di trasformazione che non sono solamente fisiche, anche mentali, intellettive, psicologiche, eccetera. Quella è la cosa che mi manca di più. Pietro. Poi insomma, io quando con Leonardo ho un rapporto speciale e insomma Pietro, quello va a sopperire insomma Le mancanze del tempo, le mancanze dei momenti, ecco, i momenti, quelli sono fondamentali. Io ti posso capire, perché insomma io ci sono di mezzo, quindi voglio dire, chi meglio di me e chi ci sta ascoltando, tantissimi uomini saranno anche loro nella nostra stessa situazione. L'importante è non abbattersi, l'importante, dice Pietro, è lottare. Senti Pietro, prima veramente dei minuti sono agli sgoccioli, tu hai scelto una casa editrice che io ritengo molto bella, giovanile, frizzante, perché Arianna la conosco da diverso tempo, l'edizione Arianna ti ha pubblicato il libro, l'hai scelto tu che lei ti pubblicasse questo libro, un libro che sicuramente avrà grande successo, non soltanto tra chi ha delle problematiche attinenti alla separazione e quindi le distanze con i figli, sia col cuore che con gli occhi, ahimè. Come mai la scelta è caduta su Arianna, questa piccola casa editrice che comunque sta facendo parlare bene di sé? Ah, guarda, devo dire che è stato un caso anche un po' fortuito, nel senso che proprio l'estate scorsa, appunto come tu dicevi, ero in Sicilia a Castelbuono per un appuntamento musicale insieme a Giovanni Baglioni con il suo concerto, e in quell'occasione abbiamo avuto modo di ho avuto modo di conoscere Arianna, che è una ragazza fantastica e che devo dire, anche rispetto ai tempi in cui viviamo, con molto coraggio, che ha molto coraggio di impegnarsi e di lavorare insomma in un settore che, lo sappiamo bene, è molto difficile insomma, no? Perché poi oggigiorno insomma per fortuna c'è ancora chi legge i libri, io sono uno di questi. ecco. Senti Pietro, dimmi, concludi. Lei ha avuto insomma la voglia e il coraggio insomma di pubblicare, investire, impegnare il suo tempo e anche i suoi denari insomma su questo progetto, sul mio libro. Insomma, mi auguro e spero che possa continuare a dare buoni frutti. Sicuramente sì, Pietro Telegrafico. Allora, siccome noi ci siamo conosciuti quest'estate, ma per pochi minuti su un palcoscenico, non è stato un bel conoscersi, perché purtroppo io stavo in tensione, tu avevi le tue motivazioni, però devo dirti che mi sei molto simpatico, almeno adesso che ho scoperto il lato debole nostro, ecco, la parte umana nostra, non quella artistica, non la maschera del manager o la maschera del conduttore o del giornalista. Quindi da queste cose siamo delle persone, sei una persona stupenda, meravigliosa, spero di rivederti il 2 di febbraio, diamo questo appuntamento ai radioascoltatori, so che tu presenterai il libro a Castelbuono, lo diciamo. Sì. Ecco, a Castelbuono, alla libreria Edicolè di Castelbuono, organizzato appunto dall'edizione Arianna. Ecco, siccome tu non mi hai invitato, Arianna, ha pensato bene di farmi leggere dei brani del tuo libro, spero che non ti dispiace. No, assolutamente, assolutamente. Anzi, abbiamo se quello di prima era un provino, perfettamente superato. Ti ringrazio. No, allora ti faccio veramente tantissimi in bocca al lupo. Intanto come papà, che tu possa crescere, che tu possa vederti crescere, grazie. Tuo figlio. Ecco, lo stiamo mandando in onda in questo momento perché siamo anche in internet, no? Quindi abbiamo anche la televisione in internet. Ecco qua, lo stiamo facendo vedere ai nostri radioascoltatori, il libro con la web TV. Eccola qui. Così lo compreranno di sicuro, perché è un bel libro, interessante, scritto anche bene e col cuore, questo è importante, non è scritto tanto pur parler, ma è stato scritto veramente con l'anima, con la profondità di un uomo che soffre determinati che soffre per un problema, per una questione che non attiene a lui, ma che attiene purtroppo alla sfera affettiva di una coppia che poi nel tempo non resiste, scoppia, esplode, e quindi poi di mezzo ci vanno i figli, con il dovuto pathos da parte di entrambi i genitori. che, come diceva Pietro, bisogna che si mettessero d'accordo prima, un po' di civile convivenza e un po' di dialogo non guasta, anziché litigare, perché comunque l'interesse comune deve convergere su quello che è poi l'esserino che si è creato insieme, un atto d'amore ha messo al mondo un figlio, e lì bisognerebbe che si concentrassero le due persone, papà e mamma, per dare serenità al futuro del proprio figlio. Ecco, sta andando già anche la tua foto in onda TV. Ecco, il libro perfetto, stupendo. Sei anche un Latin lover, tu no? No, è una bella foto, una bella foto. Allora, questo per rompere un po' l'argomento, che è abbastanza duro da affrontare, perché tocca il cuore, tocca le corde del cuore, le più profonde, quando si parla dei figli. Allora, Piero, io ti ringrazio intanto per aver accettato l'invito. Grazie a te, grazie a voi di avermi ospitato in questo spazio. Ma figurati, quando vuoi scrivi, se tu sei una buona penna continua a scrivere, saremo sempre lietissimi di ospitarti. Allora, vi raccomando questo libro, scritto da Pietro Ferro, che è l'autore, Leonardo Ferro da Vinci, intitolato chiaramente al suo figliolo. L'argomento l'avete appena sentito, si parla di padri separati, dell'amore di un padre per un figlio e viceversa. L'edizione, edizione Arianna, giovane anche questa casa editrice, giovane la titolare, appunto Arianna, che sta facendo prosediti nel tempo, perché sta pubblicando dei libri veramente interessanti e molto belli. Pietro, io ti approfitto per ricordare il 2 febbraio siamo alla libreria Edicolè. Dalle ore, diciamo anche l'orario? Le 20, l'orario presumo. 18:30. Ecco, alle 18:30, quindi mi raccomando, non mancate, perché avete modo di conoscere un personaggio che è del mondo della musica, eccetera, eccetera, ma anche un bravo scrittore. Vi raccomando il libro, Leonardo Ferro da Vinci, leggetelo perché è veramente interessante. Pietro, io ti ringrazio, ti faccio tantissimi in bocca al lupo per il tuo lavoro. Spero di vederti presto il 2 in piena forma, e soprattutto se vedi Leonardo, tuo figlio, dagli un bacio anche da parte mia. Ti ringrazio. Ciao. Grazie ancora a te, Pietro, in bocca al lupo, lì nella regia. Ciao, ciao. Non chiedi libertà, lo sai, non sono io a incatenarti qua. Il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua. Che mi vuoi, non devi fare niente che non vuoi. Il cuore non ci sta in una scatola, e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? E allora era Eros Ramazzotti con Un angelo disteso a sola. Se la regia, grazie a Scera, bravo. Ormai Scera è un tecnico favoloso, è un tecnico specialistico, specializzato nell'abbassare subito con lo sguardo, mi capisce subito e abbassa subito la musica. Allora, dovremmo avere al telefono il sindaco di Cefalù, ma prima di presentarvelo bisogna capire un po' la situazione. È stato dichiarato dissesto del comune di Cefalù, mi pare per 13 milioni di euro. Mi corregga poi il sindaco se io sbaglio. Ci sono stati dei passi straordinari. Non è ancora in diretta il sindaco? Non ancora. Allora vi faccio un piccolo excursus io intanto di quello che è successo a Cefalù e perché il comune ha dovuto dichiarare dissesto più che altro la Corte dei Conti. Allora, cominciamo con il piano di risanamento che la Punzi nel sindaco insieme alla giunta eccetera era riuscito a mettere insieme dopo aver approvato i bilanci del 2008, 2009, 2010. Voglio chiedere al sindaco se sono queste le date giuste del triennio dell'approvazione dei tre bilanci. C'è stata una delibera per un consuntivo di 13 milioni, questo è il debito conclamato del comune di Cefalù, sarebbero 26 miliardi del vecchio conio. Allora, dunque il 29 novembre il Consiglio Comunale approva questi tre bilanci, questo triennio, e inserisce, perché bisognava presentare entro il 5 dicembre alla Corte dei Conti di Palermo, bisognava presentare questo bilancio. Allora, dentro questo bilancio, per come dire, dimostrare alla Corte dei Conti che si sarebbero potuti incassare questi 13 milioni, aveva messo, ma sulla parte cartacea, non con documentazioni idonee, cioè con i soldi in tasca non ce n'erano, ma nella parte cartacea si era stabilito di fare un mutuo delle opere di urbanizzazione e di vendita di immobili appartenenti chiaramente al comune e altre situazioni. Però una volta presentato questo bilancio con la previsione di incasso di questi 13 milioni di euro alla Corte dei Conti di Palermo il 5 di dicembre, ed entro il 5 il comune di Cefalù ha presentato la documentazione. Il 7 dicembre invece succede che una legge nazionale, un decreto legge, approva il salva comuni, perché ci sono diversi comuni che sono in dissesto, e quindi la legge del 7 dicembre, un disegno di legge, fa sì che i comuni possono essere salvati diluendo, anziché in 3 anni per come prospettava il sindaco di Cefalù, in 10 anni. Ma il 13 dicembre cosa succede? Che c'è il rigetto da parte della Corte dei Conti, il quale in buona sostanza dice al comune di Cefalù: ma scusate, voi questi 13 milioni ce l'avete già in tasca? No, li dobbiamo ancora incassare. Allora, niente di fatto, la Corte dice no, dichiara quindi il dissesto del comune di Cefalù. A questo punto non si può neanche rivalere sul fatto della legge, del decreto legge del 7 dicembre del comune di Cefalù, cioè avendo presentato il ricorso prima del 5 anziché il 7, con questo cavillo la Corte dei Conti non gli dà la possibilità allo stesso comune di poter partecipare a questo salva comuni decreto legge fatto dal governo nazionale. A questo punto cosa si fa? Il sindaco insieme a tutta la giunta comunale prepara il ricorso al TAR. Siamo fermi qui, vediamo se c'è il dottor Labù. Non è ancora in linea. Quindi questo è l'iter che di questi ultimi mesi, gli ultimi 2 mesi del travaglio della giunta, del sindaco, che cerca di sistemare quelle che sono le casse comunali. A questo si aggiunge che il sindaco, insieme agli assessori, alla giunta, cosa fa? Eleva al massimo il livello del pagamento dell'IMU per quanto attiene la seconda casa e soprattutto per quanto attiene il Consiglio Comunale, sì, approva l'aumento dell'IMU al massimo della tassabilità, e qui vanno ad incorrere alcuni albergatori di alto spessore, i quali per non pagare questa tassa così elevata cosa fanno? Si rivolgono al TAR, il TAR boccia la presentazione di queste richieste da parte di alcuni albergatori cefaludesi, dicendo giustamente se il comune è in dissesto ha necessità di far cassa, e quindi per far cassa deve elevare alla massima potenza quello che è l'introito dell'IMU. E quindi anche qui c'è tutta una querela tra comune, tra albergatori, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso se, finalmente, eccoci qua, c'è un reverbero, però se cortesemente me lo togli, grazie, è già a posto. Allora, vi annunciavo la presenza del sindaco, non fisicamente ma per telefono, di Saro La Punzina, che io ringrazio e saluto. Sindaco, buongiorno. Pronto? Pronto? Siamo col cellulare, quindi è probabile che sia ricaduta la linea, intanto che ripristiniamo il collegamento. Vi dicevo che non c'è da stare molto allegri. non c'è da stare molto allegri, perché comunque su Cefalù c'è una situazione. Non ti sentiva più niente. Ah, ecco, se mi abbassi adesso l'audio in cuffia. Pronto? Sì, pronto, sindaco, mi sente? Pronto? Sindaco? C'è qualcosa che non va, vediamo se la regia riesce a sistemare sta cosa. Dicevo, c'è da stare poco allegri intanto perché non c'è un turismo, come dire, c'è un abbassamento non tanto delle presenze ma di consumi da parte dei turisti che vengono a Cefalù, perché si lamentano che non ci sono i servizi e che è una piazza molto esosa, molto cara. Sindaco, ci siamo? Pronto? Oh, finalmente. Un attimo, che io in cuffia le orecchie mi stanno diventando come un asino, perché qui insomma c'è da sistemare un po' la questione. Allora, buongiorno intanto e grazie per aver accettato l'invito, sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, senti, siccome in privato ci siamo del tu, e io ho fatto, grazie anche alla ricostruzione che mi ha fatto qui la redazione, tutto quello che è successo in un paio di mesi per quanto attiene il dissesto del comune di Cefalù, no? Tu hai fatto approvare insieme agli assessori, quindi alla giunta, si sono approvati un triennio, il bilancio di un triennio 2008-2009-2010, se non vado errato. No, non è proprio così. Ora, allora, ricostruiamo bene tutta la situazione, detto da te, insomma, se uno ha detto ai lavori, ecco. Allora, avete fatto un piano... Brevemente ti dico che io sono sindaco dal 10 di maggio, ho trovato una situazione che era sotto gli occhi di tutti, di un comune che non aveva approvato i documenti contabili degli ultimi anni, sì. E aveva una già richiesta da parte della Corte dei Conti di riapprovare il rendiconto del 2008-2009 in quanto i risultati dell'amministrazione erano non riconosciuti, inattendibili. Per cui oltre al 2008-2009 da riapprovare, il Comune di Cefalù doveva approvare per la prima volta il rendiconto 2010, il bilancio 2011, il rendiconto 2011 e il bilancio 2012. Abbiamo fatto tutto questo grazie alla collaborazione del Consiglio Comunale, perché è il Consiglio che ha approvato tutti questi atti e da noi predisposti, e abbiamo allineato il Comune di Cefalù a tutti i comuni italiani, approvando anche il bilancio 2012. Tutto questo c'era stato ordinato dalla Corte dei Conti con una richiesta di misure correttive già nel mese di luglio di quest'anno. La prima adunanza è stata dell'anno scorso, 11 luglio 2012. Fatto tutto questo, la Corte ci ha chiesto una serie di chiarimenti rispetto alla situazione finanziaria dell'ente, in quanto io ho ereditato oltre 10 milioni di debiti fuori bilancio, ho fatto una ricognizione precisa di tutti i debiti fuori bilancio che ammontano a circa 12 milioni, e ha chiesto di presentare un piano di risanamento che abbiamo presentato alla Corte dei Conti, piano di risanamento triennale. Sì. È stato ritenuto non sufficiente, ma non sufficiente non per colpa dell'amministrazione comunale, perché la mole dei debiti fuori bilancio e anche il contenzioso con possibili altri debiti fuori bilancio, nonché la situazione finanziaria dell'ente lasciata alle precedenti gestioni, era purtroppo molto precaria, per cui la Corte ci ha nella sede del 13 dicembre ci ha ritenuto non sufficienti queste diciamo misure. In quella sede io ho chiesto avvalermi di una nuova legge che era uscita da 5 giorni il 7 dicembre esattamente, il Salva Comuni, no? Pubblicazione giorno 8, esatto, in Gazzetta, esatto. E legge tra parentesi più favorevole, perché è la legge cosiddetta Salva Comuni, perché dà la possibilità ai comuni di rientrare in 10 anni, in 10 anni, per cui una legge che possa permettere al comune di presentare un piano di riequilibrio, se non che nonostante la mia richiesta, la delibera della Corte dei Conti che è stata diciamo adottata e depositata il 10 gennaio non ha permesso al mio comune di presentare questo piano di riequilibrio, in quanto la Corte con 33 pagine ha detto quali sono i motivi per cui il comune si trova in questa situazione, in questa grave situazione finanziaria, addebitando al passato e tutta questa diciamo anche modo di gestire lo stesso comune con un bilancio parallelo rispetto a quello di un ente locale, e per cui con un bilancio fatto di debiti fuori bilancio. Dopodiché che ha ritenuto che la nostra richiesta verbale del 13 non poteva essere diciamo accettata in quanto ci voleva l'atto formale. L'atto formale che il comune di Cefalù l'ha adottato il giorno 15, il sabato di dicembre, 15, sì. Due giorni dopo, abbiamo... Mi senti? Sì, sì, sento benissimo, vai avanti Saro. Pronto? Sì, io ti sento, tu mi senti? Sì, sì, io ti sento. Vai avanti, vai avanti. Quindi il 15 dicembre succede. Abbiamo adottato il giorno 15 la procedura di riequilibrio e abbiamo, nonostante questo, abbiamo ricevuto, i consigli comunali avevano ricevuto la diffida per dichiarare il dissesto finanziario. A questo punto la Giunta ha deciso di, nonostante diverse polemiche, diverse richieste anche da parte di molti di non fare questo ricorso, la Giunta ha deciso di proporre ricorso al TAR e ieri pomeriggio con decreto presidenziale il Presidente del TAR di Palermo ha concesso la sospensiva di tutti gli atti, per cui fino al 14 febbraio non ci sarà nessun tipo di risposta. Ecco, io ti fermo un secondo, Saro. Sì. Mi vengono spontanee due domande. La prima domanda è, ma a Saro Lapunzina e a tutto quanto il Consiglio Comunale, cioè queste persone che sono nello scalo più alto del Comune di Cefalù, che rappresentano la cittadinanza cefaludese, ma in buona sostanza mettere mani in questo calderone bollente, chi ve l'ha fatto fare? Perché comunque tu sapevi la situazione che c'era, perché hai fatto tanti anni l'opposizione. Ma guarda, come chi ce l'ha fatto fare? No, è la mia domanda mi sorge spontanea. No, ma te lo dico subito, perché quando io mi sono candidato prima nella fase della campagna elettorale, molti mi hanno chiesto chi te lo fa fare, a Berlino, dove c'è un comune che ci sono 4 rendiconti e 2 bilanci da approvare. Oh mamma. Io sto vivendo questa mia esperienza come un'esperienza di servizio. A servizio della città non ho altri interessi se non l'interesse pubblico davanti, che è quello di restare nella storia come il sindaco che vuole lasciare un segnale. Il primo segnale che voglio lasciare è quello del risanamento. Io penso che il comune può essere risanato, deve essere risanato nell'interesse di una comunità e di una cittadina. Ma ci mancherebbe altro. Ma ci mancherebbe altro. La mia azione è un'azione di servizio. Tant'è vero che ho manifestato sin dall'inizio che metto tutto il mio tempo a disposizione del comune, mi sono messo in aspettativa dal mio lavoro, sì. Per cui dedico più di 13 ore al giorno e anche più certe volte al comune di Cefalù. Spero di che questo venga apprezzato da coloro i quali mi hanno votato e anche da coloro i quali non mi hanno votato e che continuano a osteggiarmi. Non giudico assolutamente un'azione non meritevole quella dell'opposizione, perché l'opposizione io l'ho fatta per 10 anni e l'opposizione serve anche in democrazia. Io giudico invece coloro i quali per partito preso, giudico non meritevole di attenzione, coloro i quali per partito preso vedono questa mia azione come un'azione non comprendono che in questo momento è un momento particolare dove ci si dovrebbe tutti aiutare. Bravo Saro. Senti, un'altra domanda che ti faccio. Io ho letto tra le righe qua e là in qualche quotidiano che tu avevi alzato, voglio dire, le percentuali al massimo dell'IMU a Cefalù, e ci sono stati gli albergatori che sono rivolti al TAR che a sua volta li ha bastonati. Allora, noi abbiamo tra le misure correttive, abbiamo proposto anche quelle dell'IMU delle aree edificabili al massimo, alle 10.06. Bravo. Abbiamo avuto molte proteste. Tra parentesi, queste aliquote, va bene, tasse e tariffe, andrebbero al massimo, perché se noi andiamo in dissesto andrebbero al massimo in modo irrevocabile per 5 anni. Invece in questo modo noi l'abbiamo fatto per il 2012, speriamo già dal 2013 di poter abbassare queste aliquote. In ogni caso lo abbiamo fatto nell'interesse dell'ente. Gli albergatori giustamente si sono lamentati, come anche altre attività produttive, hanno fatto un ricorso al TAR. Il TAR ha rigettato, non ha concesso la sospensiva anche perché anche nella, proprio nella, nella motivazione del rigetto, il TAR ha detto che questo aumento da parte del Consiglio Comunale è stato dettato dalla grave crisi economica e finanziaria in cui versa. Infatti c'era una condizio particolare, quindi voglio dire. Sì, io penso che questa vicenda, cioè questa grave situazione economica e finanziaria in cui versa, come dicevo prima, ormai è conosciuta non soltanto ai giudici contabili, ma anche a tutti, per cui penso che sia qualcosa che ormai ha fatto il giro del mondo, potremmo dire, ma esagerato, per cui diciamo che è ormai di pubblica conoscenza. Senti, a questo Saro, punto, scusa, a questo punto, cosa ha fatto il sindaco di Cefalù? No, scusami, mi interessa anche dire questo. Cosa ha fatto il sindaco di Cefalù? Ha fatto un appello e lo continua a fare oggi tramite Cefalù Radio Madamie. L'appello è quello di dire: la città siamo noi, dobbiamo aiutarci tutti, e comprendo il momento difficile, di grande crisi, per cui io non sono contro gli albergatori, ma non lo potrei essere, perché la nostra città è una città a vocazione turistica. Io chiedo ancora una volta, e lo farò pubblicamente, oltre a farlo pubblicamente lo farò anche per il tramite di un incontro, che gli albergatori si facciano carico insieme a me per la soluzione dei gravi problemi che stanno nella nostra città. Prego. Ecco, no, ti ringrazio, no, era giusto che ti lasciassi finire il concetto, perché così passa il fatto che il sindaco non è che per partito preso si scaglia contro chi poi è nel settore produttivo, perché se non si produce, tu capisci, non si va da nessuna parte. Però ci sono dei dati oggettivi straordinari, nel senso che Cefalù ancora una volta, mi dicevano stamattina alcuni addetti ai lavori del settore alberghiero e ristorazione, che notano un abbassamento ancora di più del 25-30%, ecco, ti stiamo mettendo in onda mentre parli al Consiglio Comunale, non tanto delle presenze turistiche a Cefalù, quanto i turisti si lamentano che non ci sono i servizi giusti parimenti a quello che si paga. Allora, come pensi tu nel futuro, nel 2013, sperando che l'economia nazionale riprenda un pochino di qualche punto in percentuale, ma che noi che ci possiamo anche andare un po' dietro anche con lo 0,50 per fare un esempio, come pensi di poter dare un po' di ossigeno alle casse del comune, a parte il discorso TAR o non TAR, e soprattutto come dare un aiuto a quello dal punto di vista comunale, quindi dal punto di vista istituzionale, un aiuto affinché le presenze turistiche possano essere supportate meglio sotto il profilo delle infrastrutture, delle strutture che servono, recettive soprattutto, e quindi ripartire come volano di produzione di lavoro, ecco, turistico qui a Cefalù. Bellissima questa domanda, perché è evidente che un sindaco non può stare attento soltanto alla questione economica e finanziaria del comune, ma deve stare attento allo sviluppo, per cui io comprendo il momento di crisi che non riguarda la nostra cittadina, riguarda in questo momento anche la regione, l'Italia e tutta l'Italia, se non anche altre nazioni. È chiaro che c'è un momento di crisi, e noi dobbiamo cercare di trovare le soluzioni affinché per affrontare questa crisi. Io sono in questo momento impegnato, oltre al risanamento, a trovare soluzioni per potenziare proprio quei servizi di cui si fa sempre cenno, e per questo cercheremo di occuparci da subito, già ce ne siamo occupati, ma cercheremo di farlo anche in modo più rapido, della vicenda che riguarda i parcheggi, se non quella che riguarda anche la messa a reddito dei beni, e il rendere sempre Cefalù sempre più accogliente. Guarda, è il lavoro di questi giorni, speriamo di farlo nonostante purtroppo le ristrettezze economiche. E questo non è colpa del sindaco, ma è colpa di una congiuntura internazionale che ha causato i disastri che ha causato. Sindaco, io non posso far altro che rinnovarti la stima personale di tutto lo staff di CRM, intanto, per la tua disponibilità sempre a intervenire nelle nostre trasmissioni. Poi un in bocca al lupo per il futuro, per quello che ti sta a cuore, che i tuoi sogni non restino nel cassetto, ma che vengano posti in essere, perché non è soltanto Cefalù, se riparte Cefalù ripartono le Madonie e riparte buona parte della Sicilia, anche dal punto di vista soprattutto economico, ne abbiamo tanta valuta. Quindi non ti abbattere, la cittadinanza sicuramente sarà al tuo fianco, scevra dai colori politici, perché in questo caso qui siamo in una trincea, stiamo combattendo contro un comune nemico, che è l'economia, che in questo momento ci stringe da tutte le parti. Speriamo che tu ce la possa fare insieme a te e tutti i tuoi colleghi della Sicilia ed oltre. Grazie ancora, Saro. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a Sarola Punzine. Io direi a questo punto di dare un saluto particolare a Espert, e lo trovate a Lascari, Espert sempre della famiglia Cascino, un nome indelebile che resta sempre indelebile nella mente della gente, perché ha uno showroom straordinario da visitare a tutti i costi, innovativo, esposizione dove trovi tutto quello che ti necessita dalla A alla Z, così, quindi dai tappeti all'arredo, al bagno, tutto quello che serve in una casa, tutta merce che comunque va vista, bisogna rendersi conto di quello di cui io vi sto parlando. Ci sono le stufe a pellet, ci sono i caminetti che hanno un design particolare, ma ci sono anche le cucine componibili, ci sono le camere da letto, i salotti, appunto l'arredo bagno, le piscine, tutto quello che vi serve. Non dovete far altro che andare appunto nella cultura della qualità, Cascino vuol dire questo, in mostra, e lo trovate dove? Lo trovate a Termini Imerese in via Criscione, è uno showroom straordinariamente bello con delle firme di tutto riguardo, Zucchetti, Piazzetta, Giacomini, Cartel, Zazzeri, Velux, insomma trovate le firme più prestigiose. Andate a trovare Cascino in un momento di depressione economica, chissà che non troviate qualcosa con prezzo qualità e per arredare ancora meglio e godervi di più la vostra casa. Poi sempre grazie ad Angelo, questa volta che il figlio di Pietro Cascino, lo trovate con Espert, una firma, una garanzia, con gli sconti che in questo momento sta perpetrando a tutto tondo, e lo trovate a Lascari, e c'è una novità assoluta, devo dire, potete portare i vostri elettrodomestici obsoleti, non buttateli in mezzo alla strada o in discariche insomma improvvisate, portateli all'Espert di Cascino Angelo a Lascari, loro vi ritirano il pezzo obsoleto, penseranno loro a smaltirlo e voi vi ricomprate con lì dovuti sconti, vi ricomprate il pezzo elettrodomestico che vi serve e ve lo portate ex novo a casa con tanto di garanzia e con lo sconto già effettuato. Ma da Cascino e da Espert trovate veramente tutto quello che vi necessita per la vostra vita, per il vostro tempo libero, per il vostro lavoro, e lo trovate all'Espert sempre in Lascari, quindi è facilissimo, vicino all'Hard Discount. Detto questo, un ultimo suggerimento, no, questo ce lo conserviamo per dopo. Io direi di dare linea alla regia, mettiamo qualche brano musicale, c'è il sindaco di Castelbuono ancora che dobbiamo sentire per quel discorso del CEFOP, e abbiamo chiuso quest'altra puntata. Se nel frattempo non facciamo a tempo con il dottor Basile, purtroppo lo procrastiniamo la prossima settimana, invece è importante, visto il problema CEFOP, cioè 350 persone che sono state messe in mezzo alla strada, cercheremo di capire cosa è successo nel Consiglio Comunale di Castelbuono con il sindaco Tuminello, che aveva proposto all'ordine del giorno di presentare una missiva alla regione, cosa che non è stata fatta. Quindi nell'attesa vi parlo di Easy Chic di Spallino Nunzio in via Fonte di Camar, perché vi parlo di Easy Chic perché trovate le stufe a pellet della Bartolini, della Lincar, con l'assistenza tecnica, questo è importante per tutti gli elettrodomestici, ma anche e soprattutto per quanto attiene le stufe a pellet. Poi il pellet di faggio o di abete bianco, le stufe di Zibro che sono straordinariamente buone, ottime, di qualità, e poi dei lampadari che bisogna andare a vedere con lo sconto del 40% per metterli e abbellire ancora di più la vostra casa. Quindi lo trovate in via Fonte di Camar 41, telefono 333 45 74 321. Questo era Easy Chic. Dunque dovremmo avere adesso in diretta invece il sindaco di Castelbuono, quell'argomento che vi citavo all'inizio della trasmissione, il CEFOP, uno degli enti più grossi della formazione professionale, si è commissariato, c'è un dissesto finanziario, ci sono dei commissari che hanno fatto delle approssimativamente, ecco, sono stati un po' pressapochisti, hanno fatto delle selezioni di questi 900 e passa operatori del settore, le maestranze così chiamate, ne hanno tolti di mezzo, e questo è il termine giusto da usare, 350, non si capisce con quale modalità, comunque sono stati esodati, per cui sono in mezzo alla strada, saranno sicuramente per qualche anno, percepiranno una indennità di disoccupazione, dopodiché della serie o col piano Barca, che è un piano che prevede la riassunzione di questi 350 e la loro rimessa sul mondo del lavoro dopo una breve pausa di perfezionamento, di innovazione, eccetera. E quindi intanto questa gente è ferma. Allora il sindaco aveva proposto in consiglio comunale ultimo di presentare una lettera all'attuale presidente della regione Crocetta nell'attenzionarlo su questi 350, di cui una ventina sono di Castelbuono, e sentiamo cosa è successo nel consiglio comunale. Intanto do il benvenuto al sindaco di Castelbuono, dottor Tuminello, buongiorno. Buongiorno a voi e ai suoi gentili ospiti. Lei è molto caro, sindaco, lei è molto caro. Allora, ridiamo perché il momento è veramente brutto, è tetro, così chiamato. Sindaco, allora, c'è stato questo benedetto CEFOP, è stato commissariato, 350 sono stati fuori. Su Castelbuono quanti sono rimasti per strada, sindaco? Ma le notizie che ho io sono di 15 collaboratori che ormai erano storici per il CEFOP, sì. Quindi non riusciamo a capire il perché di questa scelta, considerato che per anni avevano ben operato all'interno di una struttura che ha sempre funzionato, che a Castelbuono aveva parecchi sportelli e attività formative varie. E quindi ci siamo preoccupati certamente di presentare in Consiglio Comunale una mozione che potesse essere prima di tutto di solidarietà, ma anche un momento di discussione su un argomento così serio e delicato quale può essere questo. E quindi avete già presentato istanza presso la Presidenza della Regione o vi siete astenuti in questo momento, visto quello che è successo in Consiglio? Purtroppo non è stato il Consiglio, poi non ha potuto discutere questa mozione perché la minoranza si è appellata a un principio tecnico, devo dire, quindi è stata rinviata, ma ciò nonostante io proprio ieri mattina ho voluto incontrare il direttore, il dottor Canzoneri, sì. Stefano Canzoneri, proprio per capire qualcosa di più su questa vicenda. Spero che possa, lei anticipava poc'anzi le notizie che mi dava il direttore sulla possibilità di utilizzare questo piano barca, gliele confermo perché me le ha confermate personalmente anche a me. E quindi spero che questa vicenda possa concludersi, come è giusto che sia, con la tutela dei lavoratori e questo percorso di riqualificazione possa essere nuova linfa per maggiori stimoli, non solo per loro, ma principalmente per tutto il settore della formazione, per la nostra comunità che ha anche tanto bisogno di questi lavoratori e di questo percorso formativo. Grazie sindaco, lei è stato molto esaustivo, quindi ribadiamo che il direttore, il sindaco sta dicendoci che avendo parlato con uno dei responsabili della formazione, il piano barca, che questo piano salva esodati, 350, stiamo parlando di cui 15 castelbonesi, saranno reintegrati dopo aver fatto dei corsi di formazione per loro stessi, di riformazione, ecco, di riqualificazione, non mi veniva il termine, di riqualificazione, verranno reinseriti grazie al piano barca così chiamato di nuovo nel mondo del lavoro. Speriamo che sia così sindaco, le sue parole siano profetiche. Intanto la ringrazio a titolo personale ma anche a titolo di cittadino acquisito di Castelbuono. È una sensibilità che le è dovuta, l'ha fatto, e di questo gliene viene dato atto e merito a lei e a tutto il Consiglio Comunale. Quindi speriamo. Grazie. No, grazie a lei sindaco, grazie, continui su questa strada perché insomma 15 famiglie sul lastrico in un paese di 9.000 abitanti, insomma è un neo che Castelbuono insieme a tutti gli altri comuni non si può permettere. Speriamo che le cose si aggiustino e non manca certamente a lei. Ecco, lei viene ripreso mentre sta parlando appunto in Consiglio Comunale, penso che si sta trattando questo tema, e se ne l'amico Angelo Arduino. Guardiamo al futuro con occhi di speranza. Speriamo bene sindaco, intanto auguri a lei, buon lavoro a lei e a tutto il Consiglio Comunale. Grazie. Sperando che a Castelbuono voi, risolva anche lui, come che c'è lui, i problemi che nel quotidiano si prospettano. Grazie anche al sindaco Tumminello, ci ha dato una nota di speranza, ha parlato di questo piano barca, che avevo fatto cenno io, ma lui ha avuto modo di parlare con un esponente, un dirigente della formazione, il quale ha valorato quello che io testé avevo asserito prima, quindi che saranno riqualificati e rimessi nel mondo del lavoro. Ci auguriamo che sia così. Intanto vi auguro un buon fine settimana di vero cuore. Momenti non sono dei più belli, stiamo attraversando momenti brutti anche dal punto di vista meteo, però insomma dopo la tempesta spunta sempre qualche raggio di sole. Io mi auguro per tutti quanti voi e per noi stessi che la cosa sia così, che il 2013 almeno buona parte possa trascorrere in serenità e che le famiglie possano avere quei beni, almeno gli essenziali, che a oggi purtroppo cominciano a non avere più, che le banche cominciano a rierogare quello che erogavano un tempo, che l'economia si possa rimuovere e perché no, poter guardare con più serenità il nostro futuro, ma soprattutto il futuro dei nostri figli. Io mi fermo qui, vi do l'appuntamento per domenica alle 8.30 sempre su CRM con la replica, poi chi vuole seguirci può farlo su streaming e può andare su podcast e ascoltare le puntate regresse o le repliche delle puntate precedenti, e vi do l'appuntamento sempre per giovedì, stesso programma. Da parte mia un bacio a tutti, buona domenica, ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.